Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. E siamo arrivati al Festival del 1993. È un festival importante per me, ma che comunque rappresentò uno spartiacque notevole anche per la storia del festival, a prescindere dalla mia presenza. Ma facciamo ordine. Il festival arriva alle 4 serate, 23, 25, 26, 27 febbraio, a presentare l'immarcescibile Pippo Baudo con Lorella Cuccarini, e poi un dopo festival con Alba Parietti, sarebbe bello sentire un parere della Parietti, poi vediamo, e Giancarlo Magalli, poi c'è Roberto D'Agostino, Marta Marzotto e ovviamente la supervisione di Pippo Baudo, che in quegli anni era supervisore di tutto, credo che sovraintendesse anche al montaggio dei cavi prima dell'inizio delle prove. E poi c'è un ritorno, quello del maestro Bruno Canfora. Canfora che faccio, diceva Panelli negli Studio 1 degli anni 60. Torna a dirigere l'orchestra del festival, lui che aveva diretto Mina nelle Mille Bolle Blu nel 61. E insomma, un'edizione particolare con anche ospiti stranieri importanti, per esempio Rod Stewart e Diana Ross. Mistero. Quel festival l'ho vinto io con Mistero, ma non vi parlerò ovviamente solo di quello, anzi vi parlerò di molte altre cose. In seconda posizione c'è una sorpresa: Cristiano De André, Figlio d'arte, che canta una canzone di un giovane autore, Daniele Fossati, una canzone molto bella a mio giudizio, ma non solo a mio giudizio, Dietro la porta si chiama. E poi un'altra sorpresa, terzo posto, un duo al femminile, grazie di Michele e Rossana Casale, la canzone era Gli amori diversi. E poi un'edizione che passò alla storia anche per un successo illustre, perché tra le nuove proposte arriva una diciottenne che io conosco in quei giorni, che viene, che mi chiede l'autografo e che tempo sei mesi conquista il mondo. La ragazzina in questione si chiamava Laura Pausini, cantò La solitudine e la sua carriera è partita da lì. E poi anche altre voci interessanti, Gerardina Trovato che arriva secondo, Neck, insomma, e canzoni notevoli, almeno alcune, come sempre. Per esempio la mia preferita di quel festival era una canzone che aveva scritto Giancarlo Bigazzi, di Rimembranze, una canzone che si chiamava Come passa il tempo, che venne eliminata, come spesso accade, cantata da Maurizio Vandelli, da Dick Dick e dai Camaleonti. A volte il regolamento del festival è un po' cervellotico. Quell'anno vengono selezionati 36 big e poi la commissione ne sceglie 24. Questo vuol dire, insomma, che ci sono 12 big che, dopo essere stati annunciati al festival, vengono invece estromessi. E tra questi c'è Marcella con Remo Girone, c'è Mino Reitano con Ippoliti, ma c'è Carosone, c'è Casadei e soprattutto ci sono Albano e Romina, che da sempre erano stati protagonisti del festival, e la canzone non viene ammessa al festival e Albano se la prende perché dice: prima mi chiedono di partecipare e poi mi eliminano per bisogno di vittime illustri. In effetti, insomma, fu un anno in cui l'organizzazione non ebbe particolare delicatezza nei confronti di chi presentava comunque una canzone. La prima spruzzata di pepe sul festival è rappresentata da una vera o presunta rivalità tra Lorella Cuccarini, che sarà la prima donna dell'Ariston, quella che proprio mi darà il premio materialmente, e Alba Parietti, che invece conduce il dopo festival. E si racconta che, insomma, ci furono anche delle frizioni notevoli, anche perché la Cuccarini l'aveva scoperta Baudo, l'ho scoperta io in una mitica edizione 86 di Fantastico, il programma abbinato alla Lotteria Italia. Guarda caso, abbiamo l'occasione una volta tanto di avere come vedette, come star, due italianissime, Lorella Cuccarini ed Alessandra Martinez. E la Cuccarini dichiarerà: vado a Sanremo in una veste diversa, sono contenta di incontrare di nuovo Pippo come conduttrice, quindi cresciuta professionalmente, dirà anche non ho tolto il posto a nessuno, mi ha chiamato la RAI, insomma i rapporti forse sono un po' tesi. Il Corriere della Sera scriverà così: scambio di cortesie tra prime donne, ma da lontano. Conferenze stampa separate per Cuccarini, partner di Baudo alle serate, e per Parietti, che con Pippo condurrà il Dopo Festival e il Gala Unicef di domani. Qualcuno è pronto a giurare che sia stata la zuccherosa Lorella a pretendere di non avere accanto la pepata Alba. Qualcun altro metterebbe la mano sul fuoco per l'esatto contrario. Loro si discolpano e buttano acqua sulla polemica. È stata la RAI a decidere, dice con la solita verve la Cuccarini. Secondo round con Alba al fianco di Pippo, allora è stata lei a non voler sedere accanto a Lorella? Confermo che è stata una scelta RAI. Per me tornare a Sanremo è soltanto un piacere, risponde pronta la showgirl. Ma non le secca che venga inventata questa rivalità da copertina? Non capisco, ma mi adeguo. E comunque, come confrontarci? Sarebbe come fare un paragone tra la Callas e Coppi. La parola finale a Baudo. La rivalità tra prime donne tiene accesa la curiosità. È un artificio per fare spettacolo. E così sia. Il falco e il gabbiano. Prosegue il nostro racconto sul Festival di Sanremo del 93. E abbiamo una donna, una signora, ma signora perché si suol dire signora, in realtà una donna molto affascinante a cui è legato un periodo preciso del Festival di Sanremo. Peraltro, insomma, una delle prime volte in cui una donna molto bella era anche una donna parlante, cosa che non sempre è accaduta. Sto parlando di Alba Parietti, buongiorno. Buongiorno mio caro, beh, meglio di te chi lo può dire, perché hai scritto le cose più, le canzoni, una delle canzoni più belle in assoluto che le donne abbiano mai avuto in regalo, no? Quindi voglio dire, tu di donne ne puoi parlare di sicuro. Io ti ringrazio. Per esempio, 93, Sanremo incentrato sull'era baudiana. La prima domanda è: come si fa a co-condurre, comunque affiancarsi a Pippo Baudo prima, dopo, durante il festival, senza subire la sua preponderanza? Impossibile. Come fare un pasto al ristorante con Hannibal Lecter, hai capito? Non... è un cannibale. È un cannibale, ma nel senso anche buono del termine, nel senso che, per carità, a me ha fatto molto gioco fare Sanremo quell'anno. Sì. Sanremo mi mise e mi elette praticamente regina della platea Nazional Popolare, cosa che prima non era ancora. Certo. Era una selvaggeria di Guglielmi. Insomma, ero vista come un personaggio troppo provocante o provocatorio per poter entrare nelle famiglie. Quello che è contato è esserci stata. Certo. Tu sei un personaggio destinato a durare, puoi anche non parlare, puoi anche dire signore e signore buonasera. Se tu non buchi puoi presentare tu Sanremo, come è successo a tante altre ahimè, donne, sì. No? E non succede assolutamente niente, o buchi o non buchi. Certo. Ma lì Baudo era prezioso, cioè era un aiuto o un ostacolo proprio per quello che ti diceva, no, i consigli? Ma guarda, lui il primo anno mi voleva a tutti i costi, fu lui a volermi fortemente anche nella prima serata e a portarmi in trionfo in quel Sanremo, così come poi l'anno successivo invece viceversa si inventò il gioco delle parti, dove io dovevo essere la cattiva e io ero la malefica della situazione e la Cuccarini doveva essere la buona, la buona, la più amata, io, sì. Ma e io dopo che... La leggenda narra che ci fosse una vera rivalità nella Cuccarini? Sì. La verità è stata che, insomma, loro l'hanno gestita, diciamo, di comune accordo, Baudo e Cuccarini. Lei doveva essere la buona, io dovevo sì. essere la cattiva, e chiaramente, essendo lui a gestire la stampa in tutto e per tutto, io mi dovevo difendere. Sì, ma la Cuccarini ti era simpatica o no? La Cuccarini è una persona molto, molto diversa da me, è una persona con il quale io ho sempre lavorato, ma non posso dirti nulla, perché non... Sì, un sì, conto certo. è conoscere una persona, un conto è essere veramente amica e conoscerla nel profondo. Io non ci credo tanto alle amicizie in questo mestiere, quando si sviluppano per altri motivi. Sì, ci sono delle partnership più che delle amicizie. Esatto, e in fondo però ci fece gioco a tutti e due il ruolo il gioco delle parti, cioè una doveva interpretare la partita Alexis e l'altra doveva interpretare certo. la... A me piace quel ruolo lì, mi piace fare la parte della cattiva, più che della cattiva appunto, della maleficenza, la malefica, no? Che deve comunque guadagnarselo lo spazio, me lo sono guadagnato e ho vinto anche la mia scommessa, voglio dire, quindi sono molto contenta. Grazie Alba, rimani con noi che devo farti un paio di domande dopo. Complicato anche il meccanismo di eliminazione. I 24 cantanti vengono divisi in 3 batterie da 8, i primi 5 passano e 3 vanno a casa, quindi da 24 vengono ridotti a 15. Io canto la prima serata e partono le eliminazioni per la cronaca di Caprio, la Scola Cantorum e Alessandro Canino. Ma questa serata è anche la serata del debutto come coppia delle sorelle Bertello. Redane e Mimì finalmente si esibiscono assieme in un festival che, ahimè, il destino aveva stabilito fosse l'ultimo per Mia Martini. Il brano si intitolava Stiamo come stiamo e le due sorelle salgono sul palco per prime. Devono preparare i microfoni per accogliere due cantanti. Sì. Una già l'anno scorso l'abbiamo ascoltata praticamente nella sigla d'apertura è un'altra che fa la sua rentrée, la sorella, qui a Sanremo. E diciamo che hanno raggiunto i vertici del successo in momenti sempre diversi. Questa sera lo cercano insieme. Sono le sorelle più celebri della canzone italiana, Loredana Bertè e Mia Martini. Nella canzone loro, la canzone parla del malessere, della perdita dei valori umani di questi anni, ma anche della speranza di uscirne con il coraggio di credere ancora. Stiamo come stiamo, di Bertè e Piccoli, cantano Loredana Bertè e Mia Martini, dirige il maestro Fio Zanotti. Si racconta, e devo dire che c'è più che un fondo di verità sulla vicenda di urla provenienti dal camerino delle due ragazze, insomma c'è un po' di attrito, eppure il pezzo è bello, soprattutto la strofa secondo me è stata scritta da Maurizio Piccoli e da Loredana e arriverà al penultimo posto, ma questo non vuol dire nulla al Festival di Sanremo. Ecco i commenti di Mimì e di Loredana appena dopo aver cantato assieme. Mi ha fatto una gran tenerezza, mi sembrava una bambina, poi per la prima volta l'ho vista con una grande grinta, però non una grinta cattiva, isterica, una grinta dolce, era persino disarmante, l'avrei mangiata di baci. Sono abbastanza soddisfatta perché Sanremo è e deve essere il festival della canzone italiana e quindi ogni tanto qualche buona canzone io dico che c'è. In realtà poi Loredana ammetterà di avere cantato non al massimo delle sue possibilità, si trovava sotto uno stress lavorativo, ma credo che anche il fatto di cantare con questa sorella che amava e con la quale però non riusciva ad andare d'accordo abbia influito, e lei si dispiace di non avere offerto la spalla necessaria a Mimì. Sentiamo un servizio del TG2 dell'epoca. Il mistero semmai sembra essere quello di un pubblico che, nonostante trovi il festival banale, falso, condizionato dai discografici, lo dice un recente sondaggio, poi lo sta a guardare. Masochismo di telespettatori o soltanto mancanza di illusioni? Testi antiabortisti, li vedremo nei prossimi giorni, e testi qualunquisti o volutamente oscuri. Stiamo come stiamo, si rassegnano le sorelle Bertè, con Loredana un po' sovrappeso. Impietosamente il festival propone bilanci di vite mal spese, successi mal gestiti, per la consolazione della cosiddetta gente comune, ma il gioco è anche questo. Allora come stiamo? Come stiamo? Stiamo come stiamo, incazzati neri. E nella seconda e terza serata arrivano altre eliminazioni illustri. Milva viene eliminata con un tango particolare scritto da Facchinetti e Negrini, Uomini addosso, e poi escono Tony Esposito, I ladri di biciclette, esce Gio Squillo e poi Milva non si presenta al dopo festival. Insomma, partono un pochino di frizioni e di polemiche che, ahimè, io lo so bene, insomma, sono ingrediente fondamentale per il festival. Poi passa Mietta con una canzone cantata con un po' di ragazzi della Fonicetra, con un po' di aspiranti cantanti, e viene eliminato Francesco Salvi, che questa volta non riesce a ripetere le performance di canzoni divertenti. E intanto si parla già di favoriti. Uno è Renato Zero e l'altro è Amedeo Minghi con Notte Bella Magnifica. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando il Festival di Sanremo del 1993, molto importante nella mia vita, perché l'ho vinto io con Mistero, ma molto importante per la vita di molti. Per esempio di Laura Pausini, che trionferà tra i giovani dando il via a una grandissima carriera, ma anche Neck, Gerardina Trovato, Cristiano De André, insomma un festival particolare che vedrà sul palco per l'ultima volta Mia Martini e Loredana Bertè, con varie rivalità. Si racconta la rivalità tra la Lorella Cuccarini e Alba Parieti, ne abbiamo già parlato, poi c'erano anche insomma fan di cantanti un po' delusi. Io prudentemente nascosi la macchina in un altro albergo, nel mio albergo vennero bucate le ruote di tutte le macchine targate Milano, quindi diciamo arrivava da altre città questo blitz. Ma transit, torniamo a Alba Parieti che ci sta accompagnando in questa puntata. Senti Alba, ti faccio una domanda garbatamente gossipara, alla quale tu però se vuoi invece puoi rispondere in maniera istituzionale. Nel Festival del 93 tu sei diventata amica di qualche cantante che era in gara lì o così, insomma? Rispondi come vuoi. Ero molto molto amica di Biagio Antonacci, che tra l'altro avevo sostenuto anche precedentemente quando, diciamo, ancora in pochi ci credevano, l'avevo fortemente voluto a Domenica... Sì. A Domenica Inn, anche un po' contro Toto Cotugno, che un po' era geloso. E poi ero, come sempre stata tutta la mia vita, perché lo conosco da quando avevo 19 anni, ero anche molto molto amica di Cristiano De André, che per me era come un fratello, che arrivò secondo prendendo la critica, se non sbaglio, sì. Alba, io ti ringrazio, sei stata preziosissima e quindi ti abbraccio, ahimè, solo via etere. Un bacio, grazie. Ciao. Bacio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E quindi una serata finale che sicuramente Alba Parieti avrà visto con piacere, perché le due persone da lei citate, Biagio Antonacci e Cristiano De André, vanno in finale e fanno un figurone. Biagio Antonacci non immediatamente, non so più a chi credere, esplode un attimo dopo, e invece Cristiano De André, l'abbiamo detto prima, arriva secondo con una bellissima canzone. Poi ci sono i Mattia Bazzar, c'è Renato Zero, che due anni prima aveva commosso tutti con una bellissima Spalle al Muro, questa volta insomma per mia fortuna si presenta con una canzone che si chiamava Ave Maria, insomma non all'altezza di Spalle al Muro di Mariella Nava. Terze, lo abbiamo detto, arrivano Rossana Casale e Grazia Di Michele, secondo posto il pluricitato Cristiano De André, e poi arrivo io che vinco con Mistero. Purtroppo quell'anno all'Eurofestival non si poteva andare con la canzone con cui avevi vinto il festival, così io non ho potuto, come dire, presentare Mistero in quella sede. Ho cantato un valzer lento, molto coraggioso e forse anche un po' troppo, si chiamava Il Sole d'Europa, che è arrivata a metà classifica, ma il Festival di Sanremo è comunque, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, il trampolino verso l'estero più prestigioso che abbiamo, e lo dimostra il fatto che Laura Pausini vince con La Solitudine, e io ho visto coi miei occhi 4-5 mesi dopo i sacchi di posta che arrivavano da parti disparate del mondo. Insomma, La Solitudine diventa un hit transoceanico. E pensate che la prima recensione del Corriere della Sera diceva: romagnola cresciuta a tortellini e musica, perché il papà ha un duo di piano bar, a voce chiara che sale limpida, interpreta su un morbido tappeto sonoro le sofferenze di una ragazzina innamorata. L'amato compagno di scuola Marco si è trasferito in un'altra città, studiare inutile, tutte le idee si affollano su di te. Quindi raccontata così, così, insomma, sembrava una delle tante canzoni meteora del festival. Lei è figlia di un cantante di piano bar, eppure ha una voce ampia, importante, in qualche modo scatta quel meccanismo magico che fa sì che una banale storia da scuola dell'obbligo di due innamorati invece prenda veramente il volo per il mondo. Eppure quando vince a 18 anni è veramente emozionata ed è una bambina. Mi portate un microfono per piacere, perché vorrei sentire, ecco, sentire una tua impressione. No, mettiamoci la mano. Mi sembra, quello che tu dici mi sembra giusto e corretto. Non ho detto niente, volevo dire... Dove sei nata tu? Sono nata a Solarolo, in provincia di Ravenna, un paese piccolo, però volevo dire una cosa. Sì. Volevo ringraziare i miei genitori e Angelo Valsiglio, il mio produttore. Grazie veramente di cuore. Ma tu quando hai incominciato a cantare, Laura? Ho cominciato con mio padre che fa piano bar. Ah, tuo padre fa piano bar del mestiere? Sì. E allora tu hai cominciato con lui, il tuo primo accompagnatore? Mi ha insegnato lui. I fiati, il diaframma, perché lei canta, tu hai quanti anni abbiamo detto? 18. 18. Ma canta da grande professionista nell'amministrazione del fiato. State attenti, adesso finalmente posso parlare, prima l'ufficialità mi ammazza. Allora, notate pubblico, come lei usa il microfono. Insomma, quanta differenza con la preparata, spiritosa e sgamata signora della canzone che abbiamo oggi, ma insomma tutti quando abbiamo iniziato eravamo diversi da adesso. E seconda arriva una grande cantautrice molto brava, Gerardina Trovato di Catania, ha avuto una buona carriera, poi in questo momento insomma si sono un po' perse le tracce, ma mi auguro di rivederla presto. La canzone era Non ho più la mia città, peraltro con anche una frase di Paolo Borsellino: chi non ha paura di morire muore una volta sola. E poi c'è Neck, caso particolare, arriva terzo con una canzone giudicata anti-abortista. Io mi ricordo che nella conferenza stampa del vincitore e anche degli altri, quindi dove io avevo il ruolo principale, ho dovuto difenderlo anche in maniera decisa, perché i giornalisti erano un po' partiti all'attacco. In realtà era una canzone che parlava del tema dell'aborto, evidenziato fino dal sottotitolo Il figlio che non vuoi, che generò polemiche sulle quali Neck non era ancora preparato a reagire. Poi in realtà anche Neck, come avete visto, ha fatto una grande carriera e oggi è un altro più che consapevole signore della canzone. Piaccia o non piaccia, la canzone di Filippo Neviani, in arte Neck, faceva capire che eravamo di fronte a un ragazzo di grandi doti vocali e di ottima personalità vocale, insomma uno di quelli che si riconoscono dalle prime note. Questa è una delle qualità più importanti. Stiamo andando avanti a raccontare Sanremo, festival, colpi d'ala, cialtronerie e momenti artistici, e il festival di Sanremo del 93 insomma fu un festival, come abbiamo raccontato, piuttosto pepato. D'altra parte, insomma, a Sanremo si gode, si soffre, si arriva in alto e si scivola molto in basso, proprio come il falco e il gabbiano, sembra fatto apposta. E noi torneremo anche domani a raccontare la storia del festival attraverso, insomma, il mio sguardo particolare, quello di chi al festival c'è stato più di una volta e, come vedete, come sapete, continua a andarci. E poi invece dalla prossima settimana continuiamo ad aspettare consigli e storie che voi pensate sia il caso che noi si racconti. Fatelo attraverso il sito di Radio 24, il falco e il gabbiano @radio24.it. venite a trovarmi nei miei social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.